La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Lefke, 16:07, questo è l'orario, quindi 7 più 15, mamma mia, non so fare neanche i conti, cosa farà 7 più 15, non lo so, comunque mi dicono 22, no, non può essere, sì, 22, bene, quindi questo vuol dire che alle 16:22 il mio momento di fama sarà passato, beh, tutto passa nella vita, d'altronde il mio idolo, io ho solo un idolo nella vita ed è Andy Warhol, l'aveva già detto tanti anni fa e poi aveva continuato a ripeterlo perché era uno seriale, lui quando trovava una cosa di successo ci dava dentro finché non stufava, e questo con tutto il bene che gli ho voluto e che gli voglio. Sentite cosa diceva Andy Warhol appunto negli anni 60. In the future everybody will be world famous for 15 minutes. Everybody. MTV presents Andy Warhol's 15 minutes. Siccome so che voi tutti gli anni comprate le dispense per imparare l'inglese e poi le buttate via al secondo numero, vi traduco quello che hanno detto. È facilissimo d'altronde. In futuro tutti saranno famosi per 15 minuti. Questo era uno spettacolino che faceva sulla prima MTV americana Andy Warhol. Lui era affascinato dai divi grandi, ma ancor di più da quelli piccoli. Comprava questi volumetti che uscivano in America e si chiamavano Che fine ha fatto? E poi seguiva il nome del personaggio. In Italia non esistono, anche perché sennò dovremmo riempire le librerie di questi volumetti, visto che si scompare con una facilità enorme, infinita. E oggi parleremo proprio di quelli che scompaiono. E poi voi dovrete aiutarmi anche a ricercarli. Mikael Kenta, nato a Göteborg in Svezia, arriva in Italia per lavorare come fotografo, ma i risultati sono tali che decide alla fine di diventare modello. In seguito alla sua breve partecipazione al defunto reality La Talpa, compie folgoranti apparizioni sulle spiagge più costose della nazione. Improvvisamente scompare. Eppure è alto 1,90, non è mica tanto difficile non vederlo, insomma. C'è chi dice che sia tornato alla legione straniera, noi lo speriamo. Chi l'ha visto chiami 800 24 00 24. Mi raccomando, fatemi sapere dove è finito Michael Kenta. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare, è l'amore che ti vuole prendere o lasciare. E già che ci siete, approfittate e ditemi anche che fine ha fatto Valeria Rossi, che cantava Dammi tre parole, non so, 50 anni fa, 60 anni fa, quanti anni fa? Marianna Aprile, quanti 10. Anni fa? 10 anni fa? Solo 10. Solo 10. Sembra una vita. È una vita. Marianna Aprile, giornalista di Oggi. Buongiorno. Buongiorno. Questo pomeriggio sarà con me in studio per farmi compagnia, perché sono stanco di stare qui dentro da solo. E poi perché dobbiamo parlare di Costa Smeralda. Nascita, morte, forse, apparente, della Costa Smeralda e di tutto il popolo di Vipettini che la popolava o la popola. Allora, in primo luogo, prima della Costa Smeralda, cosa c'era? Io ricordo che so, la Costa Forte Azzurra. La Costa Azzurra, ma c'erano altri personaggi. Poi che sono arrivati tipo? I personaggi della Costa Smeralda. Ma allora, nella Costa Azzurra, ai tempi che so degli anni 60, non c'erano i Vipettini? O forse c'erano e non ce li ricordiamo? Ma il contorno credo che ci sia sempre, così come c'era Via Veneto attorno ai divi della Dolce Vita, il contorno, cioè il sottobosco famoso credo che sia il sottoprodotto dell'essere famosi di pochi grandi. In Costa Smeralda questo è diventato più visibile, anche più eclatante, cioè è diventato di massa. Negli anni in cui diventava di massa la comunicazione televisiva, cioè è stato il palcoscenico estivo del palinsesto autunnale, cioè non, lì si facevano i contratti per i reality, lì si facevano le alleanze per le comparsate in Rai, in Mediaset, probabilmente alla 7 in seguito. Una fiera, era una fiera della carne probabilmente, ma soprattutto, in molti casi. Ma il fatto è che non, tu l'hai chiamato contorno, no? Questo gruppo di personaggini, ma la pietanza principale spesso non c'era in Costa Smeralda. La pietanza principale era il mito della Costa Smeralda, che però è un mito che si è appannato via più negli anni e che quest'anno sembrerebbe, ma uso il condizionale perché lo diciamo da una decina d'anni, che la Costa Smeralda è morta, quindi mai fidarsi della morte della Costa Smeralda, ma era un mito che si appannava, ma nasceva dall'Aga Khan, dall'entourage dell'Aga Khan, da chi la Costa Smeralda come meta d'élite VIP, meta alta, l'ha inventata. Poi che la meta nel frattempo si fosse abbassata, abbiamo fatto tutti finta di ignorarlo, perché alla fine faceva anche comodo a noi e a loro sapere dove sarebbero stati tutta l'estate, andarli a cercare lì, fotografarli, intervistarli, insomma scovarli, stanarli con i nuovi amori, con i vecchi amori e con le corna. E è stato uno splendido gioco, sembrerebbe finché rotto, durato, sembrerebbe finché rotto. E quindi adesso non si sa più dove sono finiti, anzi vorrei lanciare un altro appello magari, se fosse possibile. Masha Ferri, romagnola. Dopo un'infanzia felice in un reality show, la ragazza appare spesso su numerose spiagge per VIP dei litorali italici. Ricercata dalle più autorevoli testate del settore, improvvisamente affronta una serie di tristi esperienze. Trenini a buona domenica, telepromozioni. L'ultima volta che è stata vista indossava praticamente nulla, insomma. Chi l'ha vista chiami 800-24-0024. Mi raccomando, se avete visto Masha Ferri, chiamatemi. Però io so qualcosa di Masha Ferri. Pare abbia fatto un calendario. Con la Fabiani, un'altra desaparecida. Ah, ne hanno messe due insieme. Avevano fatto sia il calendario sia... credo non solo loro due, con una terza di cui non ricordo con precisione il nome, quindi non lo faremo per evitare querele, ma abbiamo fatto anche una trasmissione on the road su una rete Mediaset in cui andavano in giro per l'Europa, per l'America, eccetera, svelando Un modo per farsi le vacanze gratis. Beata lei. Scusa, perché uno dovrebbe fare un programma del genere che poi non vede no. Nessuno? Cioè, tu lo registri tutto prima, poi vai in onda una puntata. Fantastica promozione per il calendario, però. Assolutamente. Infatti, chi di voi conosce il calendario di Masha Ferri o lo ha a casa? 800-24-0020. Dici? Beh, sì, era tanta roba. Masha Ferri? Il calendario. Il calendario? Ritoccato, dai, dillo. Non lo so. Lo dico però io. Era molto allusivo, un po' lesbo, cioè aveva tutto per far presa. Poi, insomma, io ne conservo memoria, ma forse è un problema mio. Io ne conservo una copia. No, quella no. È tra le cose più care che ho. Senti, ma parlami un po' dei personaggi che c'erano in Costa Smeralda prima dell'arrivo del vallettume veliname. Dobbiamo andare parecchio indietro negli anni, dobbiamo andare indietro di una ventina d'anni per trovare personaggi di peso in Costa Smeralda. C'è un triennio 90-91-92 in cui la creme della televisione di allora, che era davvero creme allora, svacanzava in Costa Smeralda. Nel 90 fece scalpore sui giornali, c'era il topless di Katia Ricciarelli, sposa allora di Pippo Avrebbe fatto Baudo. Scalpore in qualunque momento il topless di Katia Ricciarelli. Beh, sì, però all'epoca era la signora Baudo, il volto quindi. Di Rai 1, cioè fu una cosa insomma impegnativa. Però c'erano anche tanti VIP stranieri, cioè John Collins, che all'epoca era Alexis di Dynasty, insomma era nel pieno, stava lì con il suo yacht in rada, cioè quella era la Costa Smeralda. Adesso posso fare i nomi? Cioè... Sì, tu devi, sei qui per quello, ti ho invitato per avere i nomi. Ma no, adesso insomma, per capire chi sarà d'estate in Costa Smeralda basta guardare i reality d'inverno che dà la misura di quanto si sia scesi, diciamo, senza nulla togliere al talento dei concorrenti dei reality, vero o presunto che sia, ma è quello il bacino da cui si attinge ora. Anche, cioè, è quello e, diciamo, di famosi ce n'è rimasto qualcuno, ma ormai con figli, c'è una cosa di una tristezza quasi... Tipo una colonia... Una colonia VIP, bambini, cioè sì. C'è Bonolis tutti gli anni con i bimbi, c'è Simona Ventura con i bimbi... Abbiamo notizie da Alessandro, ha chiamato per sapere il nostro chi l'ha visto, sentiamo, Alessandro. Sì, ciao. Ciao Alessandro. Buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Grazie. Siamo per Masha Ferri. Masha Ferri, abbiamo notizie di Masha Ferri, sentiamo. Praticamente Masha Ferri gestisce un locale con spiaggia a Lido Adriano. Ma fa anche... Punta Turchese. Ma vende i bomboloni, cosa fa? Li fa lei la mattina? No, io l'ho vista alla cassa. Alla cassa? Al ristorante, sì. Ristorantino sulla spiaggia con ombrelloni. Sì. Credo che lo gestisca con il marito. Ah, anche un marito quindi. Ma si è sposata anche in un nero. Marito, sì. Per lo meno credo sia il marito. Mi dice Marianna Aprile che si è sposata in nero. Questo non lo sai, non l'hai vista il giorno del matrimonio. No, a dirti la verità, no, sai. È perché fatalità, sono giusto in vacanza e l'ho vista l'altro ieri che mi sono fermato per l'aperitivo. Ah, quindi sono notizie recentissime. Sì. Quindi, insomma, posso dirlo, è viva. Non è un grito di gioia, è viva. Bene, sono contento di questo. Adesso poi le autorità naturalmente entreranno in azione. Grazie Alessandro. Prego, grazie. Ciao. Mi raccomando, se avete visto qualcuno, un VIP scomparso, come si chiamava quella lì? Alessia Fabiani. Ma facciamo anche altri Alessia nomi. Alessia Fabiani in realtà adesso produce scarpe, disegna e produce scarpe. Ah. Quindi, ogni tanto si vede su qualche red carpet, eccetera. Lei si è, diciamo, reinventata stilista di scarpe. Quello è un po' un cimitero degli elefanti, fare lo stilista, perché un tempo facevano le giornaliste. Adesso, grazie. No, no, quante attrici facevano le giornaliste? Sì, sì, no, ok, è vero. Tu sei professionista. Sì. Mandiamo un disco, perché mi sono entrato in un guaio, devo risolvere una gaffa con la nostra ospite. No, no, comunque non stavo scherzando. No, è vero comunque. E oggi invece fanno le stiliste. Per esempio Valeria Marini. Valeria Marini, di cui non riusciamo a liberarci. Valeria Marini, che rimane un'abitue tenacissima della Costa Smeralda. Sì. Tutti vanno e vengono, lei c'è, con i suoi costumi sbrilluccicanti, con i suoi pareo sbrilluccicanti, almeno 15-20 giorni l'anno. Niente, credo non che sia l'ATM. L'ATM? Scusa, cosa stai dicendo? All'ente del turismo, volevo dire. All'ente del turismo. Voi non sapete, l'ATM è l'azienda tranviaria milanese. Cioè, Valeria Marini prende il 15 la mattina, va in Costa Smeralda e torna sulla sera. Beh, ho un altro avviso importante da lanciare, aspetta. Non so come finirà. Costantino Vitaliano, classe POCA, 1974. Viveva tra troni, palestre, presenze fisse in Costa Smeralda. Poi il ragazzo abbandona la casa del padre Lele e scompare. Inizia a vivere di espedienti, per esempio posa per un marchio di costumi da bagno, poi più nulla. Testimoni affidabili dicono che sta girando un film con Alvaro Vitali, questo è vero, dal titolo Vacanze a Gallipoli. Evidentemente non può più permettersi la Costa Smeralda. Chi l'ha visto, chiami 800 24 0024, manderemo la Calapiacani. Senti, però posso aspettare, sì, una lancia a favore di Costantino. Ma anche sulla testa. Me ne assumo la responsabilità. Prego. È stato uno dei pochi a riuscire a capitalizzare quel momento. È vero che gli è durato molto il momento, perché è stato uno dei più longevi in quanto il primo, insomma. Però è stato lui e il suo sodale interrante sono stati tra i pochi a non bruciarsi quello che hanno costruito in quegli anni. Sono meno visibili, ma non sono finiti. Cioè, hanno ancora un loro hanno movimento. Un seguito dietro le quinte. Ti dirò una cosa, una volta l'ho intervistato in un programma e lui mi aveva detto: io finché dura vado avanti, poi mi inventerò qualcosa, quindi era già abbastanza lucido. Però qui siamo per scherzare, dobbiamo scherzare. No, no, assolutamente, cioè, qualche esempio. Senti, positivo. Ma come mai noi disprezziamo tanto questi, non dico Costantino, ma questo vallettume, questi personaggini, però poi compriamo i giornali per leggere cosa fanno, dove sono, cioè siamo un po' ipocriti? No. Non credo, cioè, nel senso che con questi personaggi qui è più facile identificarsi. Io parlo da lettore adesso, sì, e non da giornalista. Per noi il discorso, se vogliamo, è anche più impegnativo. Però cioè, chi apre un giornale e ci trova la Masciaferri che poi finisce alla cassa del ristorante, si identifica più facilmente e ogni tanto sentirsi, come dire, coinvolti in quello che potrebbe essere la fama, la popolarità, la visibilità, fa piacere, se no non ci sarebbe tutta quella fila ai casting del Grande Fratello. E beh, dal casting alla cassa, insomma, il passo non è breve. Il passo non è breve. Se siete stati in Costa Smeralda anche solo per errore e siete andati, che so, nel locale di Briatore, nel locale di Smile, e avete visto qualcuno, la Santanchè, per esempio. No, ecco. No, la Santanchè è stata la prima a prendere le distanze dalla Costa Smeralda quando ha visto che iniziava ad appassire. Nel 2008 lei disse che era finita la Costa Smeralda e si ritirò in Versilia, dove aveva degli altri interessi economici, diciamo, aveva un'altra quota di un altro bagno, adesso, però lei è stata una delle prime, ecco, ad andare prima. Adesso che sappiamo che la Santanchè è in Versilia, eviteremo la Versilia. Chiamatemi quindi 800 24 0024 se avete visto la Santanchè in Versilia o chissà dove. Ma tanto vi trova lei. Ci trova lei? Sì. Ti faccio sentire un pezzo musicale a proposito, adesso non so se vuoi sentirlo, è un pezzo musicale che andò, non è proprio estivo, era una cosa sanremese. I Jalis. Ma come hai fatto a indovinare? Sono apparsi i Jalis alla cassa del supermercato sotto casa vostra, chiamatemi 800 24 0024, ma anche se siete voi i Jalis, chiamatemi lo stesso, almeno ci dite dove siete. In realtà loro so che girano spesso, dicendo appunto non giriamo più. Sì, perché hanno anche fatto delle denunce, hanno approfittato di un qualche Sanremo fa per attirare l'attenzione sul loro caso discografico, cioè sostengono di essere stati in qualche modo ostracizzati dal mercato discografico, che è una cosa che molti sostengono quando vabbè, non entro nello specifico del loro caso, ma insomma è una cosa che si sente dire spesso. Però parliamo anche dei gazzosi, dei ragazzi italiani. Ma siamo guarda qui per che quello. I ragazzi italiani e tanta roba avevano avuto una addirittura una parodia, non so se ti ricordi, in una puntata in un'edizione L'Ottavo Nano, Pippo Kennedy, sì. Non ricordo, c'erano i ragazzi delle ragazze. Cioè era Corrado Guzzanti che faceva il verso ai ragazzi italiani, cioè sono stati un fenomeno e nessuno... Ti dico una cosa, cioè, dei ragazzi italiani, io ho conosciuto una volta il loro manager che mi ha raccontato la storia dicendo che andavano appunto di moda le boy band e lui mi ha detto: abbiamo preso questi quattro deficienti, l'abbiamo messi su un palco, parole del manager, non mie, per cui è onesto, certo, figurati. Ecco, senti, ma i VIP degli anni 90 che sono scomparsi, non te li ricordi più, eh? Sono scomparsi, no, ma ci stavano delle, cioè ci sono sicuramente delle tipo Valeria Mazza. Sarà tornata in Argentina. Ogni tanto però si manifesta, è tipo la Madonna, cioè ogni tanto appare in Italia, non si sa bene per quale motivo. Sì, però io voglio sapere una cosa. 12 figli. Mi rivolgo agli argentini. Cioè, cosa vi abbiamo fatto? Prima i Bond argentini, poi Valeria Mazza, adesso Belen. Però ci hanno dato Belen in cambio. Ma aspetta, fra un po' ti direi anche basta. E gliela ridiamo indietro. Sarà una vendetta perché tempo fa gli abbiamo mandato la Carrà, cioè voglio saperlo. Cosa hanno gli argentini contro noi? No, questo è l'autolesionismo italiano, l'Argentina è piena di italiani. Esatto. Quello che non gli piace ce lo rimandano qua. Esatto, ma perché noi siamo molto accoglienti. A proposito, ti leggo la quarta e ultima scheda della nostra ricerca VIP. Veridiana Malman, brasiliana, perseguitata dall'invisibilità. A New York nessuno la nota. In Spagna, Grecia, Germania, Portogallo nessuno la nota. In Italia la notano e le fanno fare Striscia la Notizia. Diventa la velina meno famosa di tutte le edizioni di Striscia la Notizia. Dilapida un patrimonio per sostare sulle spiagge di VIP, ma non la fotografano neanche per sbaglio. Cioè, ho fatto una foto, mi è venuta male, no, niente. Va all'Isola dei Famosi, ma viene distrutta da Belen, ne parlavamo prima. Cerca il rilancio a Human Take Control, chiuso dopo due puntate, tre cose. Un flop clamoroso. Più che chi l'ha vista, dovremmo dire chi l'ha mai vista. Insomma, se l'avete mai vista... Lei si è giocata anche molto bene la carta del fidanzato da reality. Sai che nei reality, se ti fidanzi, comunque qualche chance in più di andare avanti ce l'hai. Io no? Non cioè, sono questa mai è una regola aurea. Non sono mai stato né all'oratorio né nei reality, quindi non conosco questi meccanismi. Sono gli stessi. Sono praticamente gli stessi. No, però lei insomma, ha avuto questa love story nata sull'Isola dei Famosi con Leonardo Tumiotto, eccetera. Sono usciti copertine, interviste, conviviamo, ci sposiamo, no, ci lasciamo, eccetera. Poi è finita veramente. Adesso ci sono in giro gossip che la riguardano, che verificheremo e poi vi daremo, ma cioè, di sostanza, diciamo, alla domanda che fai nella vita, credo avrebbe qualche difficoltà a rispondere. Ah, professione non ma, tutti uguali. Non si sa. Io non. Però tu mi stai dicendo che tornerà. Tornerà. Stiamo dando una notizia esplosiva. Tornerà tra noi. Senti, però c'è stato anche un film che ha celebrato la Costa Smeralda. Nella seconda parte noi parleremo con un personaggio che in Costa Smeralda è di casa e che è anche legato a questo film. E cominciamo sentendo una piccola clip tratta da questo film Irrinunciabile. Donne pomodoro tutti i giorni, ma poi sto cavolo di tonno non viene via. Guarda, questi sì si divertono. C'è anche qua Fieri. Sta con la Jespica. No, non è vero. Sì, guarda. No, ti dico, non ci sta. Che fighi. Io frigo patatine tutto l'anno, per 15 giorni facciamo qualcosa di diverso. Ok, fate delle proposte, sentiamo. Beh, potremmo uscire dal recinto una volta ogni tanto, no? Ma dove? Dove? A Porto Cervo? Sì, a Porto Cervo, è qui a due passi. Beh, potremmo andarci domani, eh? A fare cosa? A ballare, a vedere due facce note. A rifarci gli occhi. Sì, a farci spellare vivi. A me a fare lo sfigato che guarda i VIP che mangiano in barca non mi va. Proposta bocciata. Oh. Luana e Silvia, siete in nomination. Questa ve la faremo pagare. Perché quando mai ce l'avete data gratis? Allora, ci sono i bambini, sono le 4:26 del pomeriggio. Ma che cosa mi tocca ascoltare? Ma la gente va veramente a vedere i VIP? No, cioè in Costa Smeralda si vedono cose che sembrano finte. Cioè sembra una scenografia già di... Se uno prende Porto Cervo sembra di stare a Cinecittà. Cioè è finta, no? È finta, non ci sono le è case. È di una bellezza sconcertante ma assolutamente plasticosa. Non più tardi di 3 anni fa a Porto Cervo ho assistito alla seguente scena. c'è il negozio di Briatore, no? A marchio, diciamo, billionaire, cioè, con le pantofoline, e nella vetrina c'è la gigantografia del volto di Briatore. La gente si faceva le foto davanti alla fotografia del volto di Briatore. No. Ed era una scena, e c'ero io che fotografavo loro che fotografavano la fotografia di Briatore, perché poi si arriva anche a questo. Ma io ti voglio bene per questo, perché tu ammetti di essere così, cioè non è che hai detto che schifo, sono andata via, sono andato a fare le vacanze in un convento, no? No, io ero lì per lavoro. Vabbè, dicono tutti così. attenzione, c'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Roberto da Modena. Ciao Roberto, hai notizie fresche di anche tu di qualcuno? No, anzi, come io no? Le chiedevo, perché chiedevo che fine avevano fatto alcuni personaggi. Ti spiego, sì. Io negli anni 80 facevo il DJ, poi ho cambiato chiaramente tutta la mia vita. Fai il rappresentante di Prosciutti adesso? Cosa no, però diciamo ho cambiato radicalmente la cosa, perché diciamo ho voluto cambiare. Quello che appunto volevo sapere, mi ricordo che in quel periodo c'erano dei personaggi incredibili tipo Sandy Martin, Denaro, Spencer, tutta questa combricola di gente che poi come una meteora è passata e andata via. Sarei curioso di capire ad esempio cosa fa oggi Tracy Spencer. Allora, perché... guarda, possiamo esserti d'aiuto. Sandy Martin, biondo crinito, cantante di origini slave, pare si sia trasferito a Ibiza. Io l'ho visto 3-4 anni fa in un programma televisivo che facevo sul Music. È vivo, sta bene, imbalsamato. Tracy Spencer viene da casa mia tutti i mercoledì mattina, pulisce, fa le tende, stira, lava, fa tutto quello che c'è da fare. Non canta più, per fortuna. No, pare sia tornata in Inghilterra Tracy Spencer, dove non so, farà la commessa anche lei. Avrà aperto una... Ne ho perse le tracce. Mentre Sandy Martin credo che abbia una catena di ristoranti. Sì, perché poi qualcuno si piazza così. Comunque Sandy Martin è vivo, Tracy Spencer non te lo garantisco. E poi mi hai citato anche Denaro. Beh, Denaro l'abbiamo visto all'Isola dei Famosi. Ahimè, è tornato a un certo punto. Ahimè, è tornato con le sopracciglia di qualcun altro, però è tornato. Prima aveva la voce di un altro. Esatto. Perché, insomma, quest'uomo non esiste. Prima o poi arriverà davvero lui. E cioè. Quel giorno sarà terrificante, sarà l'Armageddon. Allora, 800 24 00 24, quale VIP del passato avete avvistato? Dai, ieri abbiamo parlato dei VIP del presente e delle rockstar. Non potete non aver mai visto. Fammi un nome. Chi? Paolina Rubio. Ecco, io non so assolutamente chi sia Paolina Rubio, però vedo Alessandro che... Canino. Beh, Alessandro Canino però non era, era un grande, quello che cantava brutta. Tu è brutta, dai, scusa. Ha un pub. No, ha un pub. Ringo il DJ. Ma, no, Ringo il parrucchiere degli anni Ottanta. Dove sono finiti tutti? Fatemelo sapere. La bella estate. Accampamenti nomadi e fumatori d'olio dall'Oriente sui tappeti, le visioni riempiranno le mie mani vuote. Stavo per dire quante soddisfazioni mi dà Marianna Aprile, la giornalista di oggi che è venuta a trovarmi questo pomeriggio, perché gli dicevo chi è questa che canta e lei mi ha detto Sibilla. E faccio, no, come fai a sapere? L'aveva letto sulla scaletta, perché io non l'avevo coperta. Sibilla, una protetta di Battiato, ti racconto tutto, partecipò a un Sanremo dei primi anni Ottanta con questo pezzo ed ebbe una disavventura. Si cantava in playback, gli lasciarono il microfono aperto, lei cantò sul playback con un'altra tonalità, venne fuori un disastro che neanche Stockhausen alla fine, e praticamente è morta lì. L'hanno portata, da lì ha iniziato a chiamarsi Oppio di cognome. Sì, pur di dimenticare, pur di dimenticare. Ecco, questa è una delle tante meteore che hanno attraversato il nostro mondo. Se ne avete vista qualcuna nel cielo estivo, sia in Costa Smeralda, ma anche a Cesano Lombardone, non so, a Zagarolo, ovunque voi siate, 800 24 0024. C'è Michele da Pordenone, per esempio. Michele. Buonasera a tutti. Buonasera. Hai notizie fresche e affidabili? Ho notizie che risalgono a 2 anni fa. Beh, insomma. Tracy Spencer. Ah, un momento. Ma, recenti volantini ritrovati nei locali del Pordenonese, comunque del nord-est qui, dicono che frequenta ancora i festival estivi, diciamo che rievocano un po' gli anni Ottanta, ecco, sì. Di musica anni Ottanta. Cioè, ma lei, ormai... lei anche i fratelli La Bionda, che non so se qualcuno si ricorda. Beh, dai, ma i fratelli La Bionda non si toccano, hanno creato la storia della musica negli anni 70, eh? No, e poi anche Alan Sorrenti, Irigheira e via dicendo. Comunque Tracy Spencer a Cavallino Tre Porti in un famoso campeggio. E più di Lady Gaga, a Cavallino Tre Porti, Tracy Spencer. Ah, ecco, fermi tutti perché Marianna Aprile l'ho mi persa. Sta dicendo. Sono appena tornata da Cavallino Teppotti dal famoso campeggio, l'ho persa. Due anni fa. Ah, beh, ero molto irritato. Due anni fa Tracy Spencer era lì. Adesso dove sarà? Jesolo, perché si muove un pezzo alla volta, va. A Punta Sabbionia. Comunque nelle feste estive organizzate dalle radio che diciamo sono specializzate nella musica anni 80 è ancora molto richiesta, ecco. Va bene, grazie per queste informazioni, sono sempre oro per noi, oro. Non si è rassegnata. Ma non ci si deve mai rassegnare, prima o poi si tornerà a galla. E adesso abbiamo il nostro ospite speciale che però accogliamo con un pezzo musicale degno di lui. Cerco l'estate tutto l'anno davanti alla TV. Jerry Calà. Ecco. Pronto, buongiorno Jerry. Pronto. Ma dove sei in questo momento? Allora, in questo momento sono sulla mia terrazza sul lago di Garda, a Padenghe del Garda, così c'ho di fronte una vista stupenda, la giornata è così, però insomma c'ha il suo fascino. Quindi non sei... sono in partenza, stiamo con la mia famiglia, stiamo facendo le valigie perché stasera poi vado a Forte dei Marmi dove mi esibisco col mio show alla mitica capannina, sì. Alla mitica capannina dove sono circa 15 anni che tutti i mercoledì dell'estate tengo il mio show e poi partirò e domani notte mi imbarcherò su una nave a Livorno per andare in Costa Smeralda dove il 30 sabato ci sarà l'inaugurazione del mio nuovo locale che appunto si chiamerà Vita Smeralda. Oh, come il film famoso. Però allora, Garda, Forte dei Marmi, Costa Smeralda, io ti farei fare 15 giorni obbligati a Cologno Monzese dopo perché non te li meriti, guarda. Esatto. Senti, ma tu che l'hai vissuta la Costa Smeralda e l'hai anche ritratta in questo film, che rapporto hai con questa zona d'Italia che è pure tanto bella dal punto di vista naturale? Secondo me è solamente tanto bella perché dopo tutto il resto sono illazioni, cioè. E poi c'è gente che decide di far decadere i costumi in Costa Smeralda e poi adesso invece li sta facendo decadere a Formentera, però non sono i luoghi che determinano le cadute di costume, ma sono le persone. Ecco, io vado in Costa Smeralda perché secondo me è uno dei posti più belli del mondo. Io sono stato ovunque, a Pasqua mi hanno convinto dopo anni ad andare a vedere queste benedette Maldive, però devo dire che il mare che c'è a Caprera o a Spargi o a Budelli, insomma, io non l'ho mai visto. Ah, beh, quindi sei andato fino alle Maldive per dire sarebbe stato più bello restare in Costa Smeralda. Però devi ammettere una cosa, che c'è gente che ci sta anche marciando su questa passione per i VIP, sa che il VIP di qualunque livello tira e quindi crea il locale, crea l'evento in modo che la gente poi vada. Il VIP speriamo che tiri nel senso buono, insomma, solo. Va bene. Alcune foto hanno anche colto dei VIP che se la tirano in un'altra maniera. Comunque a parte sei tu che lo stai dicendo, io non sto dicendo niente, è Jerry Calà che lo sta dicendo. Ho qui la testimone Marianna Aprile, tu hai sentito ma tutto. Ma io ho fatto anche testimone. Un film, conosco bene questo ambiente. Comunque cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo anche che parliamo del locale. Il locale è in questo porto magnifico che secondo me sta contendendo il primato a Porto Cervo, Poltuquatu, che si sviluppa in un'insenatura che si chiama Marina dell'Orso, veramente sembra un piccolo fiordo norvegese, dove uscendo tu c'hai davanti l'isola di Caprera, un posto meraviglioso dove sono sorti alberghi, negozi, residence e così, molto tenuto molto bene, e dove il mio amico Umberto Smaila fino a 2 anni fa aveva un locale che si chiamava Smaila. Ora lui aveva finito il contratto già da 2 anni e hanno pensato di chiamare me per continuare, diciamo, la tradizione di un locale che a Poltuquatu non faccia una pura discoteca, ma faccia insomma qualcosa di più, cioè un intrattenimento, uno show. Io faccio un vero e proprio spettacolo la sera con la mia band, dove racconto, diciamo, la mia carriera, perché tu sai che io quest'anno ho festeggiato 40 anni di carriera. Vabbè, allora facciamogli gli auguri, Marianna. Dai. 40 anni, certo. Di carriera, aspetta, aggiunti a 60 anni che ho compiuto il 28 giugno, sono un centenario. Dalla voce non si direbbe. Dalla voce non si direbbe neanche dall'energia. Senti, chi è che ci sarà all'inaugurazione? Hai fatto qualche invito particolare? Ma io ho invitato un po' di gente, adesso vediamo chi arriva. Ho invitato, insomma, dei miei amici, non so, Oppini, poi anche qualche attrice che ha fatto quel filmino con me, Rita Smeralda, ci sarà Benedetta Valanzano, poi ho invitato la Marini, che sembra che sia da quelle parti. Vediamo, ne parlavamo prima, che praticamente la protegge la Proloco locale. Non lo so, insomma, ho invitato un po' di amici, ma però io voglio dire, a me la parola VIP incomincia a darmi un po' fastidio, perché poi sono derivate delle parole che sembrano anche un po' schifose, tipo quando vai in un posto e dici, ecco lì c'è il VIPaio, la zona VIP, ma basta. Io volevo dire, io sono in Costa Smeralda, ma non faccio un locale per i VIP, io faccio un locale per la gente, per quelli che, per i sardi, per i turisti, sono per quelli che si vogliono divertire. A me dei VIP non me ne frega niente. Ma loro sì. A loro sì, alla gente, ai sardi e a quelli che si vogliono divertire. Vengono apposta in Costa Smeralda. Ma io penso che ormai questa cosa qui, insomma, dice, la caccia al VIP sia un po' fuori. Sì, naturalmente la caccia buona al VIP, perché quella cattiva dovrebbe cominciare adesso. Cioè, armiamoci e partiamo. Jerry, allora grazie, in bocca al lupo, buone vacanze. Grazie a voi, io vi auguro un altro momento di trasmissione. Come questo? Come questo, che credo che sia stato, insomma, memorabile. Ma assolutamente, dopo appena finiamo me lo riascolto subito. Ciao Jerry, grazie. Ciao, arrivederci, grazie di tutto. Ciao. Intanto sono arrivate, guarda Marianna, altre notizie preoccupanti. Per esempio, non so da dove cominciare, Riccardo da Roma, pronto? Pronto? Sì, Riccardo. Ciao. Ciao. Cosa allora, ci racconti? Io poco tempo fa ho incontrato Sandy Martin. Sì? Ma era quello vero? Quello vero, ho fatto una foto e tutti quanti mi chiedono, ma che se sta a fare una foto di Sandy Martin? Capelli un po' più corti, sempre biondo. E poi uno dei ragazzi italiani, invece non so se è il suo o ci lavora, fa il barman in un bar su via Flaminia Vecchia. Ah, beh, qui abbiamo anche l'indirizzo praticamente, quindi invito tutti i romani ad andare a verificare se è il suo locale o se fa semplicemente il barman, però potrebbe fare una società con Masha Ferri, cioè lei sta alla cassa e lui sta al banco. Grazie Riccardo. C'è Paola della provincia di Padova. Eccomi qua. Paola, chi hai allora, visto? Sentivo che cercavate Costantino Vitaliano. Eh sì, ma più che noi no, cos'è l'Interpol sto cercando? Ecco, Interpol. Bene, è venuto qui a Montagnana in provincia di Padova circa 15 giorni fa, sì, facendo delle interviste nei vari negozi per capire come si divertono i giovani anche nei piccoli paesi. Pensavo lasciasse il curriculum nei vari negozi, detto così. anche. Cioè, aspetta, lui comunque, quindi sta facendo una ricerca di mercato? Sta facendo una ricerca di mercato? Sì, perché ha detto che è un programma nuovo che sta per iniziare a condurre lui, non so se è già iniziato, e quindi stava intervistando un po' di gente così nei vari paesetti, ecco, tutto qua. Senti, Montagnana è una cittadina bellissima che io conosco, perché è tutta circondata, conosci, nelle mura, è bellissima. Sì. Non fate entrare certa gente, insomma, chiudete le mura. Allora, quel giorno mancavano le sicurezze alle porte, ecco, mancava la sicurezza e lui è riuscito a entrare. Grazie Paola. A voi, ciao ragazzi. Non è finita, c'è anche Nazario, Marianna. Nazario dalla provincia di Fermo. Pronto, Nazario? Buonasera. Non sapevo che Fermo facesse provincia, però sai, le province qui cambiano da un momento all'altro. Allora, siamo una provincia di quelle nuove. Quelle che chiuderanno subito, fra l'altro, appena fatta la chiuderanno tra poco, speriamo di no. Allora, speriamo di sì. Come speriamo di sì? Vabbè. Allora dici chi hai visto. Allora domani sera c'è serata revival anni 80 San Benedetto del Tronto, special guest Tracy Spencer. No, Tracy Spencer è più attiva di quanto pensassimo. È attiva, ma cosa farà? Canterà? Sai già qualcosa? Presumo una delle sue canzoni, una, tanto mi. Perché l'altra quella era, no, c'era, no, quella era Taffi, quella di I Love My Radio. Taffi, qualcuno ha visto Taffi? 800 24 00 24. Vedo le facce in regia. Taffi, non si sa. Allora, Nazario, tu andrai domani sera? Non lo so, perché qua piove adesso che diluvia. Ah, quindi, tutte le scuse sono buone pur di non andare a sentire Tracy Spencer, d'accordo, ho capito, grazie, ciao. Ciao. Ciao. Vedi, anche il cielo è contro Tracy Spencer, lei pensava di fare il pienone. Dovrebbe cambiare sponda, è stato poi in Adriatico, forse quello. È in Adriatico? Appunto, da Cavallino a San Benedetto, provasse col Tirreno magari. Ecco, ho saputo che tu eri a Cavallino in vacanza, quindi come mai in vacanza in un luogo senza VIP? La risposta è contenuta nella domanda, perché non ci sono i VIP lavorandoci tutto l'anno, almeno in vacanza, perché poi in conti devi lavorare, cioè nel senso il dovere prevale, no? Che fai, fai finta di non vederli. Ah, tu, magari loro ti riconoscono. No, dubito. Non ti riconoscono mai i VIP? Grazie a Dio, no. Perché? Perché così parlano tra loro e tu li ascolti. Ah, tu stai lì e poi fai anche finta di fare la foto. al nipotino. Ah, sì. Guarda come nascono poi i giornali. Senti, adesso siamo quasi in chiusura, però puoi dirci, cioè, ormai santo, ci siamo un po' sciolti. Qual è stato il VIP più antipatico che tu hai incontrato? No, non si dice mai, perché tanto la sfiga vuole che lo devi intervistare domani, capito? Ma dai, diciamo che ce ne sono parecchi. Per esempio Costantino è tutto tranne che simpatico quando lo intervisti, perché è uno che si comporta come fosse ancora sul trono, cioè ti vede come una pretendente anche se stai lì per fare 2000 battute invece che altro. Ma lui a casa ha un trono, sai. Ma non solo lui, eh. Sì. Insospettabili hanno un trono. Sì. In bagno ce l'abbiamo un po' tutti. Va bene, allora ci sentiamo domani. Domani una puntata meravigliosa che si chiama, mi raccomando, mi raccomando, sei pronto? Ecco, la puntata di domani si chiama 3, 2, 1. Bravo, hai fatto partire il fisco nel tempo giusto. Dedicata a Giochi senza frontiere, ma no. Quello classico. Eh sì, ascoltaci, mi raccomando. Fantastico. È fantastico. Allora, grazie a Mauro De Angeli in regia che ha fatto partire il fischietto. Poi c'è la Viola Bottone in redazione e oggi c'è anche Claudia Ricifari o Riccifari. O Ricifari, non si sa, dopo me lo faccio spiegare. Grazie a Marianna Aprile. Grazie a voi. Torna presto. Volentieri. Ciao, buona estate VIP a tutti.